Buonasera. Tra gli squilli di trombe del castello siamo di nuovo in diretta, forse per l'ultima volta quest'estate. Non lo diciamo ancora, non la sveliamo questa Ma cosa, non la dama. svegliamo, ma l'abbiamo deciso? Non l'abbiamo Non deciso, no. abbiamo Penso lo decideremo in deciso. Lo diretta decideremo in oggi. diretta, Sì. coinvolgendo i nostri radioascoltatori. Vediamo se qualcuno si ribella. E non può neanche scriverci perché non c'è più il pad. Per niente, non c'è più modo di comunicare con noi, a meno che non conosciate i nostri numeri segreti, che non daremo mai in diretta, però Segretissimi, segretissimi. no, No, ci assolutamente. sarebbero grossi Siamo problemi in radio. dal castello in una formazione mostruosa, Al, cioè quasi al tanti, completo, allora. No. spettacolare, cioè piena. Oh, il buco nero oggi ha tirato dentro. Tutti i castellani presenti, perché c'è la dama, ovviamente, dalla reggia, dalla torre, dalla sala reale. Il buon gringo, ciao a tutte e tutti. Buon gringo, che tra l'altro lo sai che siamo molto legati tu ed io, no? Perché io sono Camicia e te sei gringo, che viene da Green Go Home, che è quello che veniva detto alle camicie verdi americane. Green Go Home, da lì gringo è diventato Insomma, e quindi camicia Camicia, tu cerchi verde è dei molto legami un bello. È po' così, sono, faccio mulo-camicia, collegamenti gringo in mentali. E camicia, sì. poi procedendo in senso antiorario. Presentiamo l'ospite d'onore. L'ospite d'onorissima Francesca Volpe, ciao. Ciao, ciao a tutti. Viaggiatrice. E poi c'è anche Pinguino. Una voce ormai nota Ma nelle. nota, ora ho fatto qualche Vabbè, battuta. ho capito, ti hanno sempre ascoltato. Cioè, chi segue la diretta del lunedì sera sa che prima o poi sbuchi. Oggi invece Pinguino ci fa l'onore di essere qua dall'inizio della nostra super mega puntatona. È proprio un onore, non vedevo l'ora che questo accadesse. Bene, bene, siamo contenti. Non so Cioè, se è sarcastico o deciso sul serio, non lo ma so. rimarrà così, in sospeso la cosa. Noi abbiamo solo uno svantaggio di tutto ciò, che siamo molto felici di avere qua Pinguino, però non ci sarà nessuno che ci cucina la cena. Inizia a gorgogliare la pancia, a Ai, parte sono ai, ai, ai. sciolto dalle temperature estive veramente potenti, anche qui al castello un tiravento quest'oggi, le torri, i bastioni ci chiudono in una... C'è condensa. E abbiamo solo due microfoni però, quindi facciamo il gioco tipo della patata A bollente quando turno, dico tre. turno. Eccolo. Due, Preso. uno, via. Vabbè, io partirei con questa super mega puntatona con l'appuntamento classico che abbiamo. Che dici, gringo? Esatto, ricordo solo a tutte le radioascoltatrici 13:59 AM oppure wombat.noblogs.org per seguire la diretta. Anche se le frequenze AM sembra Stanno ci si. avendo un po' di problemucci in questo periodo, però voi Esatto, confidate, provateci lo stesso. esatto. Esatto. Non è tempo per le onde medie, evidentemente, cioè, è andata così. Stanno E andando in vacanza anche loro. anche loro sono già andate. Staremo insieme un paio d'ore, come ogni lunedì, quasi ogni lunedì, e parleremo di tante cose interessanti perché la nostra ospite, scrittrice, viaggiatrice e lettrice, credo, di libri di ecologia, ecosofia, quindi ci sarà un po' da chiacchierare con lei sul suo libro La Toscana in Renault 4, che c'ho qui accanto, è bellissimo, e speriamo in un autografo presto. E poi ci entreremo in contatto con i Notav, col Con la movimento Notav, Vazzusa. perché ci sono movimenti da molti fronti, principalmente quelli ovviamente militari e industriali. Vi spiegheremo meglio perché, ma in queste ultime settimane si sono riattivati i lavori per l'apertura dell'autostrada e la costruzione dello svincolo autostradale per portare i mezzi pesanti nell'area del tunnel di base, un tunnel di base che ancora non è in costruzione, non è stato perforato ancora nulla, però cercano di avvicinarsi sempre di più a quel fatidico momento Si che i stanno Notav preparando invece il da 30 terreno. anni si preparano il terreno e i Notav glielo continuano a bruciare alle spalle, per fortuna. Parleremo con loro e capiremo insomma quello che sta succedendo al Presidio dei Mulini, a Susa, a Giaglione, tutta in Val Clarea. Quindi insomma cerchiamo sempre di amplificare la loro voce e portarla a casa vostra. E diamo un po' di musica e poi siete tutti d'accordo? Unanimità? M musica e poi la Dani. Musica. Poi, Vai, gringo. vai, vai, vai. Canto per te, che mi viene a sentire. che non sai sognare. Sono per te, come vuoi capire? Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. E dunque è arrivato il momento di presentare, lo facciamo fare a lei, Francesca, che ci dice un po' cosa fa, da dove viene, e poi dopo le facciamo le domande sul suo libro. Allora, intanto io sono arrivata qua nel castello, a bordo di un destriero. Il castello è bellissimo. E i castellani e la castellana sono fighissimi, super, super professionali, e io sono qua che ora proverò a dir qualcosa, è la mia prima esperienza radio. E niente, io sono Francesca, l'avete capito, e ho fatto un viaggio a bordo appunto del mio destriero a quattro ruote, dentate, una Renault 4. È stato un viaggio di 2 mesi, ormai alla fine del 2018, nell'autunno. Praticamente avevo lasciato da pochissimo il mio lavoro di ricerca all'università a Siena, ormai dopo 11 anni era arrivato alla fine di un percorso, e niente, quindi per suggellare questo momento e riprendere in mano il mio tempo, sono partita per questo viaggio di scoperta nelle piccole, piccolissime realtà ecosensibili, giusto per dargli così una sigla, della Toscana. E quindi niente, è stata una bellissima avventura. e alla fine della quale appunto sono tornata con l'idea di scrivere un libro, perché tutta la bellezza che avevo visto in questi 2 mesi di viaggio, tenerla per me mi sembrava veramente un atto di egoismo estremo, e quindi la volevo in qualche modo condividere e portare un po' di visibilità, diciamo, alle persone, alle storie, ai luoghi che avevo visto e avuto il piacere di conoscere e di scoprire. E quindi niente, questa in breve è la genesi. Poi vabbè, chi sono io? Boh, la risposta è diversa a seconda dei momenti in cui mi viene fatta, e in questo momento direi che sono abbastanza connessa con la natura. Sono mesi ormai che sono in eremitaggio in una parte della campagna toscana, un'oretta da qua, e niente, sto riscoprendo il lato selvatico, diciamo, e questo. Ecco, mannaggia, hai già risposto a metà delle domande che ti volevo fare, per cui mi hai fregato in un certo senso. E comunque, partendo con il libro, che diciamo è molto pertinente a Radio Contado e a tutto quello che viene detto anche all'interno della radio, e partirei anche con la frase appunto che c'è all'inizio del libro. L'idea di questo viaggio, sto citando, è entrata nella mia testa senza chiedere il permesso. E come appunto se fosse, però poi ce l'hai già detto, che è stato un viaggio di riconquista della libertà, perché c'era il motivo che ti sentivi oppressa da un ambiente che ormai ti stava stretto, immagino. Sì, soprattutto dall'idea che alla fine il mio tempo fosse gestito da altri, cioè questa cosa proprio non potevo più tollerarla, perché alla fine credo che veramente il nostro tempo sia uno dei valori fondamentali che dobbiamo preservare con le unghie e con i denti, e poterlo poi appunto impiegare nel modo che riteniamo più opportuno. E quindi sì, come spesso capita, quando si fanno grandi cambiamenti poi si parte per un viaggio. Però ecco, i miei viaggi, io confesso, io non prendo l'aereo, cioè lo prendo molto raramente per vari motivi. Primo, ho paura, mi cago sotto e quindi ogni volta è uno stress, e secondo per motivi diciamo ecologici. E quindi certo sarei potuta andare a piedi forse, però questa idea appunto come hai citato all'inizio mi è arrivata una notte, perché le idee spesso a me arrivano di notte. E niente, proprio mi diceva così, cioè prendi la Renault 4 del tuo nonno, rimettila in ruote e parti alla scoperta delle piccole, piccolissime realtà della Toscana. Ed è arrivata secondo me appunto in un momento non casuale, perché comunque quando fai spazio dentro di te poi si crea la possibilità dell'arrivo di uno stimolo nuovo, e poi a quel punto sta a te decidere se dire di sì o dire di no. E niente, l'ho detto di sì, quindi siamo partite. Per cui diciamo la tua idea notturna l'hai messa in pratica il mattino dopo, praticamente hai cominciato a pensarci subito e a metterla in pratica. Sì, ho gettato nel panico praticamente il mio fido amico scudiero, che ha dovuto mettere le mani a un R4 che era da anni, che faceva praticamente 300 metri al giorno, e quindi nel giro di veramente penso un paio di settimane abbiamo passato notti e giorni a lavorare a motori, impianto elettrico, radiatore con una panda, insomma a fare gli incroci dei Frankenstein, e alla fine niente, lei era pronta, e a quel punto siamo partite il 4 di ottobre, che era un giorno un po' simbolico perché comunque è San Francesco, quindi ti spogli e parti, ecco, era un po' questo il senso. Perfetto, e il suo libro, a parte il resoconto del viaggio, è molto interessante perché è anche pieno di citazioni sia storiche sui posti che vai a vedere, e sia anche di spiegazione dei progetti che vai a vedere in questo viaggio, che sono progetti molto piccoli ma molto ispiratori, diciamo così. Per cui ecco, l'idea appunto di non fare semplicemente un resoconto di viaggio anche molto introspettivo, perché descrivi molto bene anche le tue sensazioni di quei momenti, ma anche di unificarlo, anche ti è venuto anche, quanto tempo ci hai messo insomma ad unire tutto, perché non è un lavoro così banale, ecco, mettere insieme tutte queste cose. Allora, durante i 3000 e passa chilometri che ho fatto avevo un quadernetto con me e appuntavo le cose che vedevo, le persone con cui parlavo, le idee, le condivisioni. Però l'idea del libro non è, cioè non sono partita per scrivere un libro, sono partita perché appunto l'idea mi si era manifestata così. E poi l'ispirazione a scrivere il libro è venuta strada facendo, principalmente forse in Garfagnana quando è successo, perché la Garfagnana è una zona molto, molto attiva dal punto di vista di presenza sul territorio di comitati, associazioni che lavorano tanto veramente per la tutela del territorio. E quindi lì in qualche modo si è risvegliato un po' la parte più, diciamo così, militante, che la mia militanza alla fine l'ho fatta attraverso il libro, perché il senso di questo libro appunto è proprio quello di portare alla luce, con la mia piccola visibilità, queste esperienze di tanti eroici, sono coltivatori eroici, sono associazioni eroiche che esistono, resistono e si impegnano veramente quotidianamente per creare un ambiente, una situazione, un tessuto sociale migliore, più ricco e più di condivisione. E quindi non ricordo più la domanda qual era all'inizio, però adesso praticamente il senso appunto del libro è stato un po' questo. È stato, sì, mi ha detto, non è stata una cosa proprio immediata, infatti sono tornata e mi sono chiusa praticamente poi 2 mesi a scrivere su nel mio piccolo soppalco e ho prodotto poi... Sì, no, intendevo dire appunto che hai fatto anche molta ricerca sui luoghi, sui posti che andavi a vedere, perché appunto è pieno di informazioni storiche dei luoghi e anche di storia, appunto quella ovviamente personale delle persone che portano avanti questi piccoli progetti, e molti di quali hanno cambiato vita nella loro vita precedente, hanno deciso di fare un'esperienza diversa ma più attinente alla loro natura, che poi è la natura, insomma. Esatto, esatto, sì, infatti. Per cui, ecco, la domanda era sul fatto di quanto tempo ci avevi messo per mettere sia insieme tutte le tue emozioni ma anche tutte queste informazioni che sono molto utili. Sì, appunto ho cercato di dare anche via via degli spunti poi da approfondire con una bibliografia abbastanza ricca per cercare di come dire, di mettere insieme anche quello che era un po' tutto il mio passato universitario, ma universitario solo perché il luogo era universitario, nel senso comunque di ricerca che ho potuto fare in quegli anni sui temi legati a, diciamo, sostenibilità, comunque ecologia e annessi, e per appunto abbinarli poi come spunti di riflessione, di ulteriore approfondimento per chi ha voglia di sapere di più sui temi che via via ho trattato. E quindi, ma in realtà è stata una cosa abbastanza spontanea questo mix fra la parte mia più personale, più intima, e una più così forse stile saggio, se vogliamo chiamarlo così. Alla fine comunque vengo da 11 anni di lavoro all'università, pallosissimo, di ricerca, di puntiglio, di grande precisione, di grande veramente proprio, cioè, incaponirsi fino a che non ha trovato la radice della fonte, eccetera. E quindi probabilmente mi veniva anche un po' spontaneo fare questa parte un po' più così didattica, ecco, diciamo. No, diciamo il connubio è venuto molto bene. Grazie. E è comunque un libro anche molto utile. Se io 15 anni fa avessi avuto in mano un libro del genere, sarebbe stata una grande fonte di ispirazione. Per cui, siccome anche molti di questi progetti partono da gente che ha tra i 30 e i 40 anni, penso che come fascia anche di lettura questo sia molto adatto a questo tipo di persone in questa età. Sia molto bello anche leggere un libro così coinvolgente, se vuoi dire. Ti ringrazio. E una cosa che ci tengo a dire è che, ecco, diciamo, non è la visione bucolica dove, ah, che bello la campagna, i fiorellini, gli animaletti, no, cioè non è solo questo, perché ovviamente la scelta di una vita veramente a contatto con la natura in varie modalità e forme da chi fa un'azienda, una brutta parola, comunque una realtà agricola in permacultura per esempio, o a chi decide di lavorare con gli asini e i ragazzi che hanno difficoltà psicologiche e cose simili, insomma è una scelta di grande impegno anche e di costanza, di relazione quotidiana con la natura, che è un amante molto esigente e che ti prende, ti dà tanto ma ti chiede anche tanto. Quindi, ecco, si sfata un po' anche il mito delle violette e basta, perché c'è tanto dietro, anche tanto benessere ovviamente, però anche tanto impegno. Tu hai detto violette, infatti stavo per mandare Violetta Parra, come tu hai chiesto, Gracias a la vida, che è un brano perfetto per accompagnare quello che stai dicendo, perché è una canzone che ti ha ispirato, e vuoi raccontarci un attimo come mai ce l'hai così nel sangue, nell'anima, questo brano. Era un brano che avevo scelto per portarmi dietro in una radio che non c'è nell'R4, che ho dovuto assemblare così un po' improvvisata, e appunto mi ero fatto una selezione di musica, e uno dei brani era Grazie alla vita di Violeta Parra. E è stato bellissimo scoprire in apertura del viaggio, proprio erano i primissimi giorni, era il mio ultimo appuntamento universitario, diciamo un convegno, quindi piuttosto come sì, un po' serioso, diciamo come tutti i convegni universitari, che però mi ha sorpreso tantissimo perché si è aperto con un'esecuzione dal vivo di una ragazza che appunto interpretava questo brano di Violeta Parra, e quindi è stato un po' come un segno, una conferma, ecco, che ero sulla strada giusta. Allora ce l'ascoltiamo e poi continuiamo la chiacchierata. Grazie. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias. Sì, a proposito di fatica della terra, visto che mezza giornata la impiego in un orto e già non ce la faccio così, immagino quanto sia impegnativo comunque portare questa idea avanti. C'era una frase che qui avevo sottolineato di Hillman, può darsi, che proprio sottolinea questo punto, ma al di là di questo... Cioè, com'è nato il tuo rapporto anche con questo? Tu vieni comunque da una famiglia di agricola, diciamo così, contadina, che ti ha comunque portato questa... Sei già nata su questa strada, voglio dire, oppure te la sei trovata nel corso del tempo, della tua vita? Penso che l'imprinting sia stato importante, perché i primi, proprio l'infanzia, la primissima infanzia, i primi 2 anni di vita li ho passati praticamente libera in un campo dai miei nonni, e perché i miei genitori comunque dovevano lavorare, quindi fondamentalmente io ero, diciamo, in affidamento ai nonni. E questo probabilmente è stato veramente forte, questo primo imprinting, cioè, e mi portavano comunque dentro il carrello quando andavano a fare la legna oppure nella vigna, e mi distraevano con i nidi degli uccellini, con qualche cosa, e quindi 2, 3, 4 anni. Poi vabbè, le scuole le ho fatte a Firenze, quindi sono rientrata nella dimensione cittadina, però fino appunto a che ero bambina, ragazzina, le estati le passavo tutte in campagna, e per me era veramente un momento di grande libertà. I miei animali, i miei cani, le galline, i conigli, aiutavo la mia nonna a pulire i conigli fin da piccola, quindi l'imprinting, come nelle anatre di Lorenz, penso che ci sia stato e abbia voluto dire tanto. Sì, poi giusto, ci sono anche domande da parte della dama, da parte qua sul microfono, diciamo così. E qual è il ricordo, diciamo, più di questo viaggio, che più ti rimane dentro, diciamo, sì, qual è se c'è un posto, se c'è, sempre che, oppure una cosa un po' generale? È una domanda difficilissima, perché ce ne sono veramente tanti di bei ricordi. Come luogo, forse un luogo dell'abbandono, che è Montingegnoli, un borgo di un fascino veramente devastante, così come lui è devastato dal passaggio del tempo e dall'abbandono a cui è andato incontro negli ultimi non so quanti anni. Si trova vicino a Radicondoli, e io consiglio a tutti veramente di fare un'escursione. In realtà non sarebbe esattamente visitabile, perché è un po' transennato, insomma, però volendo si può comunque avvicinarsi abbastanza da percepirne il fascino. E a livello di esperienze umane, direi sicuramente una donna che mi è entrata nel cuore è Luisella, dell'associazione Orecchie Lunghe e Passi Lenti a Casciana Terme. Infatti l'avevo sottolineato questa, sì, espressione, che mi piaceva molto. Lei usa un'espressione bellissima e dice: siamo affratellati in queste lotte impari. E è vero che sono un po' lotte impari, no? Contro qualcosa che a volte ci appare più grande di noi, però questo riscoprire questo senso di affratellamento, di assorellamento, di coesione, di possibilità di fare del bene, anche come nel suo caso con l'aiuto degli animali, degli asini. Lei ha un'associazione che recupera, cioè diciamo offre un sostegno a bambini e ragazzi che hanno problemi dello spettro autistico e anche altre difficoltà tramite la terapia con gli asini. Ha una tribù di, adesso sono aumentati, erano 14, sono 17 asinelli, veramente di una tenerezza infinita, e lei è una persona molto coraggiosa, che ha dovuto anche combattere con l'ostilità del luogo inizialmente dove si è trovata, perché comunque gli asini sono i parenti poveri e storpi dei cavalli, i ragazzi che hanno difficoltà autisti, dello spettro dell'autismo, comunque sono ovviamente persone con problemi, e quindi lei ha dovuto affrontare un po' l'ostilità iniziale della popolazione del luogo, però poi piano piano con la sua grande armonia e con la sua determinazione è riuscita a inserirsi in un tessuto e a dare il suo contributo, quindi sì, direi lei mi è rimasta veramente nel cuore. Bene, e invece momenti più difficili, più che altro per l'R4, più che per te? Povero R4, è a un certo momento, la parte abbastanza iniziale del viaggio, siamo andate in ebollizione entrambe, nel senso che a lei è bollita l'acqua nel radiatore e a me è venuta la febbre, perché le emozioni dei primi giorni erano state veramente troppe probabilmente, e quindi abbiamo dovuto fare un pit stop tecnico entrambe, io a letto per un paio di giorni e lei in officina dallo scudiero, e poi anche io ho collaborato insomma a rimettere il radiatore, e quindi siamo ripartite. Però dai, secondo me è stata contenta anche lei di questo viaggio. E il fatto che hai scelto l'autunno e non magari la primavera per fare questo viaggio, proprio perché era a ruota di questa tua premonizione. Esatto, non potevo aspettare. Non potevo aspettare, ma guarda, io l'autunno è sempre stata una stagione per me un po' malinconica, triste, perché io adoro la primavera e l'estate. Quindi quando arrivo a settembre dico: no, cavolo, siamo già a settembre, ottobre poi, una disperazione nel cuore che ti lascio immaginare. quest'anno, cioè quest'anno, in quel viaggio è stata veramente un'occasione anche di riscoprire, di scoprire forse per la prima volta la bellezza dell'autunno, perché comunque andando a una velocità di crociera di 40, 50, 60, proprio a dir tanto chilometri orari, sempre su strade secondarie, spesso sterrate, avevo modo di apprezzare veramente tutti i colori dell'autunno, che sono stupendi. E quindi ben venga l'autunno, è stata per me una riscoperta anche di questa stagione. Sì, diciamo, poi anche nel tuo libro si nota anche una giornata storta, bene o male, finisce bene e comunque è costruttiva anche nel contesto di tutta questa avventura. Per cui... Sì, guarda, veramente non è per la sindrome di Pollyanna, però proprio... Che non conosco. No, nel senso, no, che è tutto bello. No, così. No, infatti. È proprio perché... veramente quello che dicevo all'inizio, credo che quando comunque scardini dei meccanismi che hai dentro di te che si erano un po' incancreniti e quindi ti poni su dei binari nuovi, su un sentiero nuovo, poi ti arrivano anche dall'esterno tanti segni che tu riesci a leggere in maniera diversa magari da quella così molto stereotipata a cui eri abituata, e quindi la negatività magari che prima percepivi adesso viene proprio spazzata via dalla bellezza di piccole coincidenze e segni. Poi è un po' proprio anche uno dei principi cardine anche dell'ecosofia, no? Perché insomma, da Guattari in poi il rovesciare l'antropocentrismo e farci risentire un po' che siamo parte di un tutto, siamo un elemento dell'ecosfera al parità di qualunque altro, anche ridimensiona i nostri problemi, ridimensiona la nostra centralità, e questo credo che aiuti tanto anche a dare un senso alle proprie giornate, a dare un senso a... Esattamente, tutto, no? Sì. E anche a riscoprire veramente un benessere molto più profondo da quello che può derivare da una vita più omologata, diciamo, no? Quando comunque ti risenti parte della natura e capisci che sei veramente un elemento fra gli altri e senti questa armonia, questo veramente ti infonde una grande tranquillità, ecco, direi. Prima ci raccontavi che tornata da questo viaggio poi sei andata in eremitaggio. Perché cos'è cambiato realmente dentro? Se è cambiato qualcosa, insomma. Allora, sono tornata e io ho una vita un po' schizofrenica, nel senso che alternata un po' fra la campagna e la città. Tornata dal viaggio, sentivo che Firenze, che appunto è la mia città, iniziava a starmi stretta. Cioè, proprio sai quando senti un po' che ti manca l'aria, che tante dinamiche non sono più tue, no? Poi adesso con la cosa del virus e quindi poi della quarantena forzata, e fortunatamente mi trovavo in campagna nel momento della chiusura, e quindi sono stata appunto per 3 mesi praticamente proprio a contatto quotidiano, e ho avuto modo di approfondire ancora di più la distanza forse con la città, e di sentire invece ancora più forte il richiamo di una vita proprio con ritmi, luoghi, contesti diversi, dove appunto ti senti natura, cioè riscopri lentamente la tua natura nella natura. Quindi sì, cioè è stato veramente questo viaggio forse un po', come dire, la conclusione di un ciclo e l'inizio di una nuova fase. Una nuova fase. Noi non so... Ultime domande, perché poi credo dovremo avviarci alla conclusione, quindi ripasso la parola a Pinguino. Allora, le facciamo leggere, a sua scelta, oppure quello che ho scelto io, un piccolo pezzo del suo libro. Allora io mi faccio spoiler da sola praticamente, sì, perché sì. Leggo l'ultima pagina. Meglio. Una parte dell'ultima pagina, quindi ce n'è anche un'altra che potete leggere in solitaria. Poi alla fine ti chiedo come risolvere un problema mio. Va bene, personale, ok. Questo diario di viaggio, nelle esperienze delle persone incontrate, è allora uno sguardo sulla possibilità e fattibilità, impegnativa ma appagante, di una vita diversa da quella omologata, proposta e imposta come unico modello possibile. Una finestra su quella rete di singoli e di gruppi che opera per il meglio, che esiste, resiste ed esce fuori. Ed è un piccolo tributo al grande lavoro che tutte le persone incontrate, ognuno a suo modo, stanno compiendo. Perché quello che stanno facendo non è semplicemente lavorare in campagna, è prendersi cura della terra e delle sue creature, curarne le ferite causate dall'industrializzazione selvaggia, dall'agricoltura convenzionale, dagli allevamenti intensivi e dall'alienazione umana, restituendo fecondità. non è soltanto fare il proprio interesse personale, è sfidare da piccole realtà le pastoie della burocrazia pensata per le grandi attività, affrontare le difficoltà economiche, contrastare tanto l'erosione dei suoli quanto quella dell'etica, per contribuire al bene di tutti. È creare delle isole salubri con terra fertile, cibo sano, relazioni autentiche, braccia stanche e cuori pacificati, delle quali beneficia consapevolmente o inconsapevolmente l'intera comunità dei viventi. Ecco, questo è un po' il senso forse anche di quello che abbiamo detto finora in questa chiacchierata. Bene, bene, perfetto. E dunque il mio problema è, lo dicevo prima a Camicia, a chi prestare questo libro? Però tu mi puoi aiutare, così non mi rompo le scatole, e dicendomi dove lo possiamo trovare, comprare direttamente, così li mando lì. Allora, il libro si può trovare in tutte le librerie, se non è disponibile al momento si può ordinare. Purtroppo, o per fortuna, non lo so, giudicate voi, si trova anche su Amazon ed è disponibile anche la versione ebook. Oltre poi c'è il prestito, appunto il passaggio, se ti senti pronto a fare questo passaggio del testimone. Il problema poi è farselo restituire. Ringraziamo Francesca moltissimo della sua presenza. Grazie a voi, è stato molto bello. Molto illuminante, grazie. E niente, buona fortuna per tutte le altre cose, in bocca al lupo. Viva il lupo e buon proseguimento a tutti e a tutte, grazie. Grande. No, è davvero grazie, comunque vorrei precisare che i libri hanno una vita propria. A volte viaggiano anche loro e passano di mano in mano, e a volte ti ritrovi in un posticino sperduto e che ti capita un libro e non sai da dove è venuto, è bello anche questo. Questo non vuol dire che te lo rubo, ma lo comprerò e lo leggerò volentieri. E non so come, esatto, e non so come riuscire poi a passare invece a un argomento in cui tutte queste belle scoperte sulla natura invece vengono ribaltate a chi cerca di distruggere in tutti i modi. Quindi ora si passa da un altro tipo, insomma, si passa a un altro tipo di viaggio, sempre di resistenza, quella su in Piemonte, in Val di Susa, a meno che Gringo non volesse dire qualcos'altro dopo. E però prima il brano che sempre Francesca ci aveva, che ovviamente ti chiediamo se vuoi restare e partecipare con noi al continuo della puntata, ovviamente ci fa molto piacere. E Aaron di Paul Kalkbrenner, e questo come mai avevi invece l'hai scelto? Perché questo è proprio un brano da viaggio, secondo me, cioè è un brano che proprio ti dà il ritmo del viaggio. bellissima, bellissima Aaron di Paul Kalkbrenner, non imparerò mai a pronunciarlo bene. 19:43 qui alla diretta dal castello di Wombat Radio, e passiamo ovviamente subito a dare voce a una realtà, un movimento dei compagni e le compagne della Val di Susa che seguiamo ovviamente sempre sia a Radio Contado e in tutta Radio Wombat. Ultimamente ci sono stati... Perché purtroppo ci sono delle grandi novità. Perché purtroppo ci sono, esatto, ci sono sempre delle novità abbastanza che fanno incazzare in continuazione, ma per fortuna c'è un movimento dietro che oltre a diffondere e a divulgare quello che succede, insomma, fa poi tutta l'azione di resistenza, grandi, grandissime tutte. E siamo infatti in collegamento con Ermelinda, con i nostri mezzi tecnici incredibili. Ciao Ermelinda. Ciao. Ciao e buona serata a te. Ciao. Ovviamente non sto adesso a dilungarmi sul racconto e lo lascio a te, più che altro sulle news che ci sono state in queste ultime settimane, ma vorremmo anche sapere qualcosa delle evoluzioni dal dopo lockdown fino adesso, perché l'ultima volta ci eravamo sentiti era nel periodo del lockdown o poco prima. Sì. Quindi insomma poi c'è stata questa ripartenza di tutta Italia e sembra che insomma anche il TAV abbia detto sì vogliamo ripartire, sì, anche noi nonostante le bocciature varie, ripartiamo e non ce ne frega un cazzo di niente. Questo è un po' tutti, sì, perché noi no. È paradossale che proprio dopo il Covid, in cui comunque chi di noi ancora mantiene un po' di speranza nel genere umano, diciamo, no? Era sicuramente nessuno poteva pensare che la prima cosa che facevano era quella di autorizzare l'allargamento del cantiere. E date le situazioni e dato il fatto che siamo in Piemonte, una delle regioni più colpite, che ha avuto più difficoltà con questo sistema sanitario che è stato impoverito negli ultimi 10, 20, 30 anni in maniera notevole, e che quindi abbiamo affrontato questa situazione in grossa difficoltà con tanti morti, e questi soldi invece che poi vengono trovati per essere usati per devastare il territorio. Quindi è molto grave, vabbè, come era grave anche prima, insomma, quello che succede, cioè che i soldi pubblici non vengono utilizzati per la pubblica utilità, ma vengono utilizzati per i privati interessi. Di fatto loro hanno fatto un piccolo allargamento, dove poi dovranno fare un ulteriore allargamento, una strada che dovrà aiutare i mezzi a uscire e entrare agevolmente nel cantiere, però erano delle opere, diciamo, già pagate, erano già state sovvenzionate, non è nulla di nuovo. Il materiale per fare questo allargamento è da 2 anni che era lì buttato nei pressi. Ovviamente dopo la notizia della Corte dei Conti e del suo pronunciamento che ci dava praticamente ragione, ovviamente loro vogliono dimostrare che non sono in ritardo, che fanno tutte le cose, e soprattutto secondo noi volevano dimostrare che la Valle alla fine l'ha digerito questo TAV. E invece non è così, okay. E ci siamo mobilitati in tanti e ci siamo mobilitati bene. È un piacere vedere che ci sono queste nuove generazioni che sono tenute insieme anche da quello che era stata, che è l'esperienza del Friday for Future, quindi con una nuova coscienza rispetto all'ambiente, all'ecologia e allo sfruttamento dei territori. E questo ci ha dato molta linfa, ci dà molta forza e speranza che appunto tra noi ci sono persone, io faccio questa lotta da 25 anni, ci sono persone che la fanno da ancora prima, e vedere che ci sono i piccolini, le piccoline che adesso fanno esattamente quello che abbiamo fatto noi 20 anni fa è molto interessante, anche socialmente, ecco, non solo per il nostro tornaconto. È buono che i giovani siano attivi e che si occupino di quello che è poi il loro futuro. Quindi da questo punto di vista hanno fatto un autogol, nel senso che se eravamo un po' silenti anche per via del Covid e di tutto quello che poteva significare anche a livello di difficoltà economiche per chi non ha potuto lavorare e cose di questo tipo, questa loro provocazione, così sono arrivati di notte, 1:30 di notte già lavoravano con i mezzi, i fari, cioè una roba proprio... Quindi proprio alla chetichella ci hanno provato, eh? Sì, sì, sì. Sì. Poi, vabbè, sempre fino a un certo punto, infatti noi eravamo già in loco, però comunque loro hanno dovuto lavorare in questa maniera molto blindata, hanno portato 1200 uomini in valle in questi giorni, che sono tantissimi, però insomma non hanno potuto scalfire, diciamo, la nostra perseveranza, ecco, in questa lotta, perché alla fine poi questa lotta è quello che è, per la perseveranza delle soggettività che l'hanno attraversata, che non ci siamo mai fermati, non ci siamo sentiti mai sconfitti, anche nelle difficoltà abbiamo trovato sempre il modo per andare avanti, perché è anche una questione di dignità, no? Personale, certo. Di chi comunque ha delle idee che sa che sono giuste e che quindi a testa alta le porta avanti. Inutile dirvi, che tanto lo sapete benissimo, che come movimento siamo stati molto, come dire, mazzolati dalla repressione. Certo, sì, sì, giovani, meno giovani, insomma, siamo tutti con foglie di via, con vari divieti di dimore o cose di questo tipo. Abbiamo Nicoletta D'Osio, insomma, che è un caso che penso noto, che ha i domiciliari per una salutiamo roba tanto ridicola. E le vogliamo tanto bene alla Nicoletta. Ecco, per una roba ridicola, però insomma un anno di carcere. Ci sono delle compagne che devono farsene due, e quindi questo un po' sicuramente ogni tanto ci avvilisce, ma poi vediamo invece che quando è ora ci siamo di nuovo tutti e tutte, e così. Negli ultimi, proprio ieri abbiamo avuto una giornata molto intensa, perché abbiamo fatto al mattino un'iniziativa come FUMNE, come donne, abbiamo fatto una versione riveduta del Viola d'Or, quindi legando la violenza sul corpo delle donne alla violenza sul corpo della terra. Ci è arrivato il video, molto bello. Sì, e nel pomeriggio c'è stato un altro appuntamento a San Didero, che è un altro luogo dove che è interessato ai futuri lavori, lo spostamento, cioè la costruzione di un autoporto. Questa cosa è molto bizzarra, perché in realtà a San Didero c'era un autoporto, poi l'hanno lasciato andare in malora e l'hanno costruito a Susa, ora lo smontano, lo tolgono da Susa e lo rimettono a San Didero, cioè che già solo questo dà un po' l'idea che si fanno i lavori giusto per poter pregare i soldi, non perché effettivamente seguono. E quindi ieri c'è stata una partecipatissima assemblea, con poi piccolo corteo fino ad andare a vedere questi luoghi, che presto diventeranno anche presidiati stabilmente da noi, visto che saranno i prossimi luoghi in cui loro cercheranno di andare avanti con l'opera. E niente, sempre molte attività, abbiamo sempre l'occupazione ai mulini, cioè lì dove c'è il cantiere, con un po' il nuovo centro nevralgico, no? Il presidio dei mulini, scusa se ti interrompo. Purtroppo non è praticabile da tutti, perché il sentiero, diciamo, principale è sbarrato e non si può passare, e i sentieri circostanti sono praticabili con una certa difficoltà, per via che già la montagna è un po' impervia, ma soprattutto perché ci sono i cacciatori di Sardegna che ci cercano e ci tirano i candelotti quando ci vedono per i boschi. Ma siccome i ragazzi sono tanti, stiamo riuscendo tutti i giorni a portare i viveri e a portare l'acqua, perché lì non c'è neanche quello, e quindi nonostante questo mi dicono dai mulini, ci dicono che stanno bene, che sono presi bene, stanno costruendo casette sugli alberi, insomma. Cioè, c'è molto fermento. La lotta, ma poi da gioia, no? La lotta, cioè da allegria, da e quindi in questo momento io mi sento di dire che siamo in una buona fase per quello che riguarda la salute del nostro movimento. E quello che ci preoccupa un po' è che naturalmente i mezzi di comunicazione non hanno, anzi, sulla Rai 3 nostra regionale c'è un grosso bombardamento su quello che fa TELT, sui lavori, che va tutto bene, che nel 2030 passeranno i treni. Cioè la Francia ha detto che non scava tunnel fino al 2038, e gli italiani dicono che nel 2030 passeranno i treni. Quindi boh, o hanno cambiato, non è più tra Torino e la Francia, oppure sono dei mascalzoni che dicono proprio un po' quello che vogliono. Per noi è importante, anche per quello vi ringrazio della vostra telefonata, perché per noi invece diffondere che la lotta continua, che non è successo niente di che, hanno fatto un allargamento già previsto, quello che ci interessa è creare una mobilitazione sempre più ampia legandola a dove vengono utilizzati i soldi pubblici, che poi insomma faccia emergere questa questione, perché sennò loro parlano solo di quello che fanno loro, non raccontano mai che accanto c'è la resistenza del popolo valsusino e dei notav anche solidali che stanno cominciando ad arrivare, perché adesso con la chiusura delle scuole ovviamente stanno anche già arrivando le persone che vengono d'estate di solito in valle, stanno già arrivando, e quindi avremo un'estate di lotta come avevamo deciso, ecco. Certo. Immagino non si parli ancora dei numeri di qualche anno fa, ma contate di arrivarci. No, certo, sì, ma come adesso, per esempio, come vi dicevo prima, raggiungere i mulini è una cosa per pochi, perché devi scarpinare, devi avere l'ansia che ti tirano il candelotto. E, insomma, quindi c'è bisogno di tutti. Messaggeri e portatori che siano agili. Esattamente, che per fortuna ci sono e sono anche presi bene, però insomma, ma diciamo anche che l'ordinanza che ha messo questa recinzione per cui non possiamo fare i soliti sentieri dovrebbe finire il 6 di luglio, quindi poi o sgomberano il presidio o liberano la strada. E quindi poi racconteremo un'altra storia. Assolutamente, noi staremo sempre seguendo. Che adesso ancora non sappiamo. Certo. Ma in questi tempi, negli anni scorsi, si era alle porte del Festival dell'Alta Felicità. Quest'anno ovviamente no, non c'è questo, ma tiriamo un sospiro di riposo. Esatto. No, scherzo. No, quest'anno purtroppo non si può fare, anche se per un paio di fine settimana tra la fine di agosto e all'inizio di settembre faremo comunque due appuntamenti, magari non declinati come è stato il festival per chi l'ha conosciuto, sicuramente più ridotti, ma comunque faremo qualcosa. Non... Bene. Volevo chiederti, un'altra cosa, scusami. Cioè, ma questo periodo di lockdown, il Covid, eccetera, avete notato in qualcuno in valle che fino adesso era rimasto assente o era rimasto silente e non prendeva posizione? Avete notato qualche risveglio in questo senso da qualche amministrazione, da qualche gruppo, da qualche, che ne so, da qualche persona che si è resa conto dell'importanza della difesa del territorio? Ma queste cose, nel senso che quando si ha paura, nel momento in cui si ha paura, si fanno un certo tipo di pensiero, no? Poi quando la cosa passa, penso che ognuno torni al suo qualunquismo abituale, ecco. Sicuramente, per esempio, in questi giorni qua di ieri, dell'altro ieri, la notizia che chiudono degli ambulatori sanitari in due paesini, di cui uno è Salbertrand, che è il paese interessato, è il paese dove finiranno i conci del cantiere, no? Loro scavano e poi porteranno il materiale ad essere trasformato in questo paese che si chiama Salbertrand. E per esempio in questo paese, mentre gli stanno proponendo questo popò di cosa, gli hanno chiuso un ambulatorio sanitario, e abbiamo visto proprio durante il Covid quanto invece sia importante la medicina territoriale, e poi in un paese di montagna come viviamo noi è fondamentale, no? Avere un punto medico a disposizione. Sicuramente useremo questo e magari servirà ad aprire un po' gli occhi a qualcuno, però insomma siamo italiani purtroppo. Purtroppo e per fortuna, ma c'era, mi rendevo conto, cioè non riesco a credere a come sia possibile che per esempio la popolazione di Chiomonte, adesso che mi sembra che l'area rossa sia stata anche allargata e che ci siano proprio difficoltà per alcuni anche nel transito, laddove prima potevano, cioè, è stato sempre un comune abbastanza SITAV. Che sono in grossissima difficoltà, perché comunque devono passare sempre, perdere moltissimo tempo in questi checkpoint che hanno messo, e adesso che c'è l'ordinanza fino al 6 non passa nessuno. E come rispondono quindi sono ora? Questi qua sono già dei notav. Ecco, quindi così. Ma la popolazione di Chiomonte è anche una popolazione anziana, non so il sindaco come ha potuto diciamo agire come ha agito, sempre naturalmente promettendo lavoro, promettendo introiti per il paese, promettendo uno svincolo per andare a sciare, insomma i soliti argomenti del capitale quando vuole diciamo con la vasellina mettere in difficoltà, diciamo, i territori e le persone. Niente di nuovo. E invece quello che mi dà speranza sono questi giovani. Sì, che abbiamo conosciuto perché, anche noi, i giovani Notav, sì, e non solo. Insomma, in generale, anche sì. In Italia, comunque questi piccolini di qua che stanno crescendo, che cercano anche di essere autonomi da noi più vecchietti, no? E quindi si fanno le loro cose, però vedo che si organizzano e che stanno capendo che se non si mettono in mezzo qua, loro fanno un po' quello che vogliono. Quindi siamo fiduciose. A proposito di giovanissime nell'anima, Nicoletta come sta? Nicoletta sta bene, freme, perché vorrebbe venire alle iniziative, però non ci sembra il caso, perché se lei viene alle iniziative si becca 8 mesi per evasione. Sì, certo. E adesso a dicembre lei finirà, quindi la stiamo cercando di tenerla buona, insomma, perché immagino, in questi giorni deve essere che c'è proprio... stata un po' più maretta, lei voleva esserci. Per adesso ci accontentiamo di una sagoma, di un cartonato che abbiamo di Nicoletta, ah, che sì? Portiamo in giro tutte le iniziative. Bellezze, no, dovete farne mille. Portiamo lei col cartonato ed è come se fosse con ma noi. Scusa, ecco. Ma se ne fate un centinaio, poi quando se lei viene davvero non si capisce, capito, come... Chi è un po' come la maschera dei Zapatisti e si mescola tra i cartonati, sì, e nessuno... Sì, sì. Poi siamo tutte così, ma la fantasia ci aiuterà in futuro bene. Anche in queste cose. Senti, prossimi appuntamenti che puoi dire? Ma adesso sicuramente c'è un appuntamento che è una cosa che è uscita oggi, che ci sarà domani, e cioè che le amministrazioni comunali, legate, cioè quelle che sono l'Unione dei Comuni della Valle, domani hanno chiesto un incontro con una delegazione del Movimento Notav, domani nel pomeriggio. Quindi andremo a sentire questi nostri istituzionali un po' silenti in questo periodo, andremo un po' a raccontargli che li abbiamo eletti perché fossero dei, perché rappresentassero meglio, almeno, cioè. ecco, e quindi sarà interessante. Questi momenti sono sempre molto interessanti tra noi diciamo, e le istituzioni. E poi vabbè, la prima settimana di luglio ci sarà un campeggio itinerante, che però quello davvero è un po' ancora segreto nelle espressioni, però ci sarà, durerà 4 giorni, e però quelle iniziative verranno date momento per momento, non c'è ancora una scaletta, diciamo. Immagino... Poi abbiamo anche un'altra iniziativa delle donne, che invece abbiamo preparato un documento sui limiti della sanità legati al discorso del dispendio dei soldi pubblici, che andremo a portare a Torino al Palazzo della Regione, all'assessore alla sanità, e quindi una presenza in città importante sempre per diffondere, insomma, le nostre situazioni. E poi tutti i weekend fino a fine agosto sono tutti prenotati dai vari comitati, dai giovani Notav. Nei fine settimana ci saranno sempre delle attività, poi quando sarà più ordinata questa cosa sicuramente usciranno, insomma, saranno poi pubblici e più specifici, più dettagliati. E tutto viene anche raccontato da Radio Notav, su Radio Blackout, no? Sì. Bene. Sì, quindi insomma, invitiamo anche ad ascoltare, sì, ecco. per chi vuole seguire, sì, penso, soprattutto il campeggio, quello lì che è organizzato in collaborazione con Radio Notav, sicuramente saranno sempre sul pezzo, sicuramente. Bene, ecco. Bene. No, noi la sorellanza tra radio è un'altra di quegli aspetti che cerchiamo di tirare sempre, certo. Sì. Non so se la dama, qualcuno aveva altre domande, perché sei stata chiarissima e ci siamo, fai veramente direi. Venir voglia di prendere il nostro furgone su. E salir su con la Renault 4. Lo farete prima o poi? Ma sì, noi poi ci incontreremo, io ti dico di già, persona. Sì, che ci arriverò prima di quanto immagini, quindi ci conosceremo anche personalmente. Bene. Vi ringrazio naturalmente e a presto per nuove notizie. Assolutamente. Grazie a tutta Womba. Grazie. Da noi. State bene, sempre Notav dalla Val di Susa. Sempre ovunque. Ciao. Ciao. Beh, un gran movimento, ma anche una grande positività. Cioè... Davvero. Dato, insomma. Sì, ma grintosa. Poi questa è la resistenza che dà proprio energie, perché sai che non puoi fare altro quando vivi in un territorio e lo ami, lo vuoi difendere, non puoi scegliere, non cioè puoi scegliere di non partecipare o di andare via, ma comunque qualche effetto te lo farà sempre, e se poi riesci a agire in queste cose da una vitalità, perché insomma, se quella valle è ancora bella, verde, salvo alcuni punti che ovviamente sono già scempiati, comunque una delle valli più urbanizzate del nord Italia, perché c'è due statali, c'è l'autostrada, c'è il Frejus, c'è già una linea TAV che passa, che fa Torino-Lione in 2 ore e mezzo a 45 euro, potete andare a comprare il biglietto su internet subito, ci sono tutte le cave da dove estraggono i materiali, insomma è già scempiata. Però insomma, da lì a fare tutto quello che vorrebbero fare, per fortuna ancora c'è un buon margine per difendere il territorio. È comunque una lotta che è riuscita già a spostare i progetti che dovevano essere prima su un'altra valle che era in Tonza, era stupenda, almeno erano riusciti a deviarla nella zona dove in realtà già, diciamo, era già un po' costruito e tutto. Insomma, noi le seguiremo sempre, no? Assolutamente. E beh, allora un po' di musica a tema. Questa valle è un fiume in piena e non si arresterà. Questa valle è questa piazza, e questi fuochi, e questi passi, e queste voci, e questa resistenza. Ce lo spacciano per progresso a tutta velocità. Riempie tasche di mazzette, doni ed escort di qualità. A noi lasciano l'amianto e le falde avvelenate. Tardi alle stazioni e la terra devastata. No, dove, no, se dove, no, se dove, a sola di una. No, se dove, no, se dove, no, se dove, a sola di una. È un progetto senza basi, una copertura vista di traffici elitari, da partiti ed impresari, attraverso un stampa impapocchiano i più pigri, chi preferisce falsa calma a disarmanti verità. Solitura, solitura, solitura, solitura. Scusate, ma siamo tutti col boccone. A un certo punto si è materializzato davanti a noi un tagliere di formaggi buonissimi con un pane buonissimo, molto autoreferenziale. Il pane l'ho fatto io, i taglieri sono del formaggio di capra. Sì, qua, ecco. siamo ormai nel relax e nel sollazzo, quindi chiuderemo in anticipo, io credo, questa super puntatona, però non prima di aver dato spazio alla Dani. L'avevo alla già nostra... accennata prima, ma poi per una questione di telefonate e di incastri le abbiamo chiesto di slittare, quindi Dani, porta pazienza, è arrivato il tuo momento, e quindi come ogni puntata noi siamo felici di avere questa voce dalla bergamasca che insomma ci allieta un po'. Amica Dani. Ciao a tutti amici, oggi è un nuovo giorno ed ecco un nuovo appuntamento con Vivi in Q. Oggi direi dal sapore di primavera, i fiori sbocciano, gli animali escono dal letargo. Sì, quasi tutti, vi ricordo che siamo animali anche noi, e spuntano pure le allergie, che poi mica deve essere facile essere un allergico ai tempi del coronavirus, perché ammesso che siate muniti di mascherina non ci potete starnutire dentro, e uno starnuto in pubblico potrebbe costarvi davvero caro. Vi ricordo l'episodio della vecchia, e chissà se nella prossima autocertificazione, mi chiedo, bisognerà addirittura dichiarare di essere allergici. Comunque l'argomento che ho scelto per voi oggi non ha niente a che vedere con le allergie, ma in realtà è perché ho scoperto che nella notte tra il 7 e l'8 aprile del 1300 circa Dante iniziò il suo viaggio attraverso la famosa Selva Oscura, e mi sono detta che il paragone con i giorni nostri viene abbastanza facile, perché secondo me da un mese a questa parte ognuno di noi è un Dante moderno che intraprende il proprio viaggio nella Selva Oscura del coronavirus, e chissà, magari presto potrà rincontrare la propria Beatrice. Nello specifico, il sommo poeta, come tutti sappiamo, inizia il suo viaggio nell'Ade e quindi nell'inferno, e lì si susseguono diversi personaggi, anime di peccatori o esseri mitologici che svolgono compiti all'interno dei vari gironi. Il primo personaggio che incontra Dante è sicuramente Virgilio, che lo guida nei vari gironi dell'inferno e del purgatorio. Beh, così ad occhio dovrebbe essere Conte, sperando prima o poi di scorgere il paradiso col prossimo decreto. E poi abbiamo Caronte, che traghetta le anime lungo il fiume che attraversa l'Ade. E questi, secondo me, sono i nostri carabinieri, appostati ai vari posti di blocco, a chiedere autocertificazione e a smistarci al girone al quale siamo destinati. E poi capita anche a voi di osservare la bilancia e vederla con le fattezze di Cerbero, il mostruoso essere che è posto a guardia del girone dei golosi, per l'appunto. E a proposito di questo girone, Caronte vi vede che fate una torta al giorno, E poi andiamo nel girone dei lussuriosi, e lì ci troviamo Paolo e Francesca, condannati a fluttuare insieme per l'eternità. Io già li vedo, ai tempi moderni, Paolo che alza gli occhi al cielo ed impreca, mentre Francesca lo rimprovera di star sempre sul divano. E poi vediamo Ulisse, eroe mitologico, simbolo di forza e di astuzia, che però in sti tempi è confinato al massimo in 200 metri da casa. Mi sa che l'Odissea se la scorda, E infine abbiamo il conte Ugolino, rinchiuso nella torre con i propri figli, probabilmente ad imprecare contro il wifi tentando di collegarsi a Classroom per le lezioni online. Sì, insomma, Dante nel 1300 direi che aveva già previsto tutto, e se ne potrebbero fare a mille di paragoni tra Divina Commedia e giorni nostri, ma oggi, anniversario appunto dell'inizio del viaggio, ho voluto giocare un po' con l'inferno e i suoi gironi. Spero vi siate divertiti anche voi, e ricordatevi che... Attenzione Sanfrediano, attenzione Contado, è riaperto il mercato contadino in Piazza Tasso, ogni venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Garantiamo cibo sano e locale, libero da pesticidi e contaminanti di ogni genere. Venite a trovarci, tutela la tua salute e sostieni i contadini. Rientriamo sul nostro spot preferito, perché si sa... Gira tutto intorno al mercato di Piazza Tasso. Esatto, tutta la nostra vita È tutto in funzione di Piazza Tasso. Se guardate le agende di ogni, partecipante a Radio Contado e dintorni, è un po' il fulcro. Va bene, comunque ci piace così, ci piace così. Ringraziamo la Dani, anche questa settimana ci ha dato veramente un grande, grandi spunti e grandi punti di vista. E qua già girano voci che ci sono degli innamoramenti così per la Dani, anche se nessuno, ecco, l'ha mai vista. Attenzione. Facciamo un appello, diciamo, cioè noi lo dichiariamo, poi può anche cadere nel vuoto, ma intanto lo dobbiamo dire che sia io che Camicia, cioè Gringo che Camicia. Sì, credo che Camicia no, aspettano lunedì questa rubrica della Dani perché ci piace tanto. Esatto, ci piace e non vediamo l'ora di conoscerla. Ci siamo, diciamo che ci siamo innamorati della voce. Assolutamente sì, della voce e della solarità vocale. Esatto, esatto. Diciamo che apriamo il buco nero, Dani, quando esatto. ci vuoi infilare, sai che puoi sbucare al castello. Ti difenderò io da questi cattivoni, non ti preoccupare. Eviterò che ti saltino addosso. Via. Se puoi venire anche con la guardia del corpo, va bene. Esatto, sì. Bene, bene. Allora, che ore sono? Che ore si sono fatte? Hai fame? Le 20:14. Qui, insomma. Sono solo le 8:15. Noi dovremmo finire alle 9. 20:15 d'ora. Qui no, ma il Toto cosa? Ragazzi, cosa facciamo? Veramente diciamo ai nostri radioascoltatori che è l'ultima. Io non me la sentirei no, di dare questa brutta notizia oggi. Io non me la sentirei, però so anche che insomma cominciano a essere giornate che la sera uno preferisce passare al fresco dopo una giornata passata al caldo. Io proporrei, teniamo in sospeso questa cosa per i più curiosi che si connettano lunedì prossimo alle 19. O ci saremo, o se non ci saremo, però almeno lasceremo un messaggio. Sotto che forma non lo diciamo, però sì, un messaggio sicuramente verrà lasciato. O magari invece ci sarà una super puntatona di chiusura con musica, canti e balli e chissà. Beh, direi che è un'ottima proposta, dama. Poi ovviamente io la voto, la sottoscrivo. Ci sono anche dei modi per condizionare il fatto che noi ci saremo o non ci saremo. Cioè, se dovessero scioccare mail su mail a Radio Wombat chiedendo no, assolutamente il lunedì sera non andate via, noi magari possiamo anche sacrificarci. Esatto, sì. Questi numerosi radioascoltatori che ci seguono. Certo, per quelle migliaia di radioascoltatrici che ci seguono, noi siamo disposti ad andare avanti. Deve essere però vogliamo essere un po' corteggiati, diciamo sì, la verità. Sì. Allora, sì, no, questo assolutamente. Diciamo che abbiamo ancora 45 minuti per cambiare idea. Che potrebbe succedere di tutto, quindi scriveteci in qualche modo. Sappiamo come. Mandateci dei messaggi. Scrivete la mail di Radio Contado @insiberia.net. Sia per infamare con gli altri di frittole che il mercoledì andranno in onda e forse anzi dovremmo andare in onda lì davvero per la puntatone, il direttone finale, sia per scriverci se ci volete sentire un altro lunedì o no, altri due lunedì. Noi intanto qui prendiamo tempo e siamo nell'attesa che dovrebbe arrivare anche la Carmine per continuare un po' la chiacchierata sulla situazione in Val di Susa, perché lei è di là e ci poteva un po' raccontare meglio, visto che cercavamo di fare questo speciale su questa tematica, però non c'è nessuno, ci hanno abbandonato tutte, Luca, e quindi io mando musica sempre a tema, Stop the Train del 99 Posse, che nel lontano 2013, ma in realtà ovviamente loro già stavano parte della lotta da fine anni 90, però questa canzone ovviamente parla della resistenza No Tav, quindi intanto, c'è già 10 mail. Intanto ho aperto la media di contatti, vediamo se... vediamo quante mail, quante centinaia di mail arriveranno. Oh! Noi lo vogliamo il progresso, non siamo contro il progresso. Abbiamo fatto fare un'autostrada che porta in Francia. Non siamo tagliati fuori né dall'Europa né dal resto del mondo. I camion li vogliono togliere dalla strada e va bene. Però li possono mettere come fanno già adesso sui treni, modificando la linea vecchia. Di realizzare un treno che va a 300 all'ora, ma i diritti dei lavoratori sono fermi a 100 anni fa. Parecchie imprese coinvolte nei cantieri della TAV erano vicine a interessi dei clan dei casalesi. Qui sopra questo muro ci viene una barriera alta 5 metri, così siamo sepolti vivi. Perché questi, per fare il lavoro, passeranno sul corpo dei loro genitori e dei loro figli. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val di Susa. Se puoi venire a casa mia per entrare e bussare si usa. E se non ti apre nessuno e la porta rimane chiusa. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val di Susa. Stop that train, non vuole masagli. Abbiamo avuto due morti in questa gara lì. Quando si lavora ad alta velocità, l'acqua della falda è scomparsa. Una zona la chiamavano la buca delle fonti, non c'è più una goccia d'acqua. Togli l'acqua a tutta questa parte d'Appennino. Non è che la togli per 100 anni, è una cosa che c'è sempre stata, è una cosa che togli per l'eternità. Anni di lavoro, mio figlio crescerà con 500 camion che vanno su e giù, non credo che sia vivibile. Ed è questo che nessuno vuol discutere, è un discorso difficile da fare, bisogna essere disposti a scrivere quanti morti, perché quelli ci saranno sicuramente, si è disposti a tollerare nei prossimi 20-30 anni in questa zona. Noi combattiamo chi distrugge, ruba, avvelena ed abusa, e non ci piace questo treno che peraltro nessuno lo usa. Noi difendiamo i nostri posti e non dobbiamo chiedere scusa. Se non vogliamo questa alta velocità in Val di Susa, né mai né mai. Stop that train, non voli in masaglie. Stu treno o sta noi non c'ho da. Questa opera che si vuole fare in Val di Susa, cinicamente la si vuole realizzare non per consentire lo sviluppo, ma per finanziare illecitamente partiti, camorra, delinquenza, corruzione, imprenditoria. È chiaro, no? Più chiaro di questo. condividerlo con voi, visto che sono in fase di condivisione. Mi sono emozionata molto questa puntata. Uno, perché vabbè, abbiamo conosciuto Francesca, che alla fine ci ha anche regalato una copia, perché sa, il pinguino fondamentalmente forse era geloso del suo libro e non ce lo voleva prestare. Cioè, ha fatto dono alla Dama ai Castellani, insomma, di trovare degli spunti per viaggi di prossimità ed esperienze per le vostre prossime fighissime dirette. E, però no, in realtà mi accogliamo sono, l'invito assolutamente. Io infatti me lo voglio leggere e mi sono emozionata, perché ci siamo trovati qua al castello una donna grintosissima che ci ha raccontato un po' di come ha realizzato concretamente, ma ha realizzato il suo sogno, e di quanta umanità c'è in giro per l'Italia. E poi abbiamo sentito al telefono un'altra donna che comunque con una carica e una positività ci ha raccontato di cose pesanti che stanno succedendo in un'altra valle, che è potenzialmente molto meravigliosa. Però mi ha stupito comunque anche l'energia positiva che è riuscita a trasmetterci e la fiducia in questi giovani che sono su in Val Susa a dare una mano. È un bel messaggio questo qui, proprio come se fosse una consegna, un passaggio del testimone che piano piano sta prendendo corpo, e quindi giovani che diventano protagonisti, non perché i vecchi si defilano, ma perché il futuro è loro e devono essere anche loro a cercare di mantenerlo, di avercelo più che altro. Ma perché... anche perché mi viene da dire, adesso io non so esattamente quando è iniziata questa lotta contro il notaio, non me lo ricordo, però sono anni. Esattamente 30. Esatto, e non mi sembra 90, che sì. Nonostante siano passati 30 anni per una roba del genere, che sia una cosa che purtroppo stia arrivando a conclusione, nel senso che ogni anno, ogni pretesto, ogni cosa ci riprovano. Quindi è bene che ci siano energie nuove, perché anche loro ci provano con pretesti nuovi, con cose nuove, e sicuramente chi c'era 30 anni fa e magari aveva già una certa età non ha più le energie. No, anzi, diciamo, infatti la cosa che poteva più preoccupare era questa, che poi il movimento col tempo si stancasse, forse pesasse tutto sulle spalle di quel gruppo di fondatori, ma in realtà, per fortuna, sta succedendo tutt'altro. I vecchi, tra virgolette, continuano a ispirare, ma essendo completamente rinnovandosi ogni anno, proprio anche la divulgazione a livello di giornali, a livello politico, no? C'è sempre qualcosa di nuovo ogni anno che viene utilizzato e strumentalizzato della valle, e quindi questo poi fa uscire anche tra i giovani la voglia di dire: cazzo, io ci vivo, io non sono uno che va lì perché è contro il progresso dell'Italia, nel senso, cioè, voglio un tipo di sviluppo un po' diverso, sì, cioè, ma proprio tutto un altro modello, è proprio un cambiamento di modello. E anzi, credo che chi ha iniziato la lotta 30 anni fa era un precursore di quello che ora sta succedendo veramente a livello più di massa, perché, come diceva Ermelinda, non solo in Fridays for Future, ma poi Extinction Rebellion e tanti altri movimenti di resistenza politica territoriale giovanissimi stanno cercando di invertire proprio il paradigma, quindi vedono nella sistematicità di questi fenomeni di lotte territoriali e di depredazione e di distruzione territoriale, dagli aeroporti all'ILVA, alle varie TAV, TAP, eccetera, no? Ci vedono ovviamente una ragione per ribaltare completamente tutto quanto, cioè il modo di crescere, il modo di andare avanti, il modo di vivere e di sviluppare un territorio. Beh, confidiamo in questi giovani, anche perché comunque ne avranno ancora per anni da lottare se andiamo avanti così, perché purtroppo l'Italia è recidiva. Sì, no, cioè, finché, non lo so, boh, forse quando saranno finiti i soldi, immagino, a un certo punto diranno non c'è proprio più soldi, finché se ne possono mangiare ancora un po' facendo anche finta di fare un lavoro, gli arrivano altri 2 milioni, altri 3 milioni, altri 5, 10, ok, questa macchina può andare avanti ancora un po', perché quella gente lì non sa vivere senza, cioè ormai loro stanno dedicando la loro vita, cioè la loro missione di vita è fare sta TAV e loro fanno il loro... C'è proprio porini, tutto che vuoi dire? Una fetta di persone tra chi deve costruire, tra chi ci deve campare politicamente e quindi rinnovare sempre. Tra l'andrangheta che ci deve vivere. Esatto, come... comunque il Gattopardo è sempre molto valido come figura, diciamo, per descrivere poi il contesto. Quindi, tutto una cambi. Una lettura del Gattopardo, la cerco cosa te va. Sì. Mi sembra che sia, ecco, sicuramente si troveranno dei passaggi molto appropriati per la vicenda TAV, per la vicenda TAP, per tutte le vicende. Comunque anche qui un mix di poteri che comunque distorcono la verità, perché poi è quello, anche quello che veniva detto sul fatto che la Francia ha detto che fino al 2038 non scava, ma in Italia viene detto che dal 2030 passeranno i treni. Sì, no, in Italia viene detto che sono già stati scavati chilometri di tunnel cioè, invece... e su Google vai a vedere, ci sono le foto del tunnel geognostico con sottoscritto, perché magari un giornale l'ha pubblicato scrivendo, no, il tunnel è già partito, ma come si fa ora a non andare avanti? E non ti dicono che quello è il tunnel geognostico, ovvero fatto a chilometri di distanza dal tunnel di base, ma viene utilizzato per analizzare l'interno delle montagne. E non ti dicono che il tunnel geognostico ha estratto elementi che hanno poi studiato il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino, evidenziando le tracce di metalli pesanti, di cadmio, di nichel e di urano, di amianto e di uranio. Non ti dicono delle falde bucate, non ti dicono nulla. Esatto, quindi capisci quanto viene tutto questo stravolto. È il racconto che viene fatto del TAV è questo, quindi non è, cioè la verità è proprio, non viene proprio distorta, ma a livelli veramente incredibili, che basta informarsi veramente poco per capire che veramente il re è nudo da questo punto di vista, basterebbe poco per dirlo. Ma non la dama. Per alcuni motivi sto... Non la dama non l'ho capita, ma no, neanche io, per alcuni motivi sto studiando l'ordinamento penitenziario, no? E un po' tutto ciò mi fa rabbia, no? Perché l'ordinamento penitenziario, cioè oltre all'ordinamento penitenziario anche, non so, il diritto civile nostro, la Costituzione, eccetera. E dice delle cose bellissime a tutela dei cittadini, di quello che dovrebbe fare lo Stato, no? E quindi ti domandi, ma nel concreto invece, in tutto questo silenzio, in tutta questa paraculaggine, in tutta questa presa in giro, cioè le istituzioni, che poi sono la rappresentazione del popolo, no? Cioè, ma dove sta tutta questa roba? Dove sta la difesa, i diritti, i doveri anche di queste istituzioni, di far funzionare bene le cose? Cioè un accanimento terapeutico per un'opera inutile solo per intascare dei soldi, che ormai, voglio dire, cioè a distanza di 30 anni, ma quanti ne intascheranno davvero, se proprio è anche una roba così economica, no? E questo silenzio, vediamo adesso, domani ci vorrebbe il menino che si incontreranno, chissà cosa viene fuori. Va detto, ci sono molti comuni che sono dichiaratamente no TAV e sono schierati e ci sono dei grandi. Per fortuna. D'altronde sì, è molto spaccata la valle. Però i lavori sono ripresi, cioè questa cosa è telefono. Ma sanno, sono forze sovra territoriali, sovra istituzionali, figurati, infatti ci mandano i militari, ci mandano le forze speciali, non c'è nessuno di quei poliziotti, di quelle forze dell'ordine che stanno a presidiare i cantieri, sono del Valligiani, sono tutti da giù, gente che mi raccontava la Carmine e altri, su che negli inverni dei presidi e delle manifestazioni di qualche anno fa, nel momento molto duro e tosto di Venaus, della Maddalena, eccetera, c'erano questi militari in tenuta antisommossa che gelavano tra la neve e che dicevano, ma erano lì che proprio non ci sapevano stare, proprio dice prima morivano di freddo e che quindi li facevano avvicinare ai fuochi del presidio per farli per scaldarsi, no? C'era questa immagine che mi ha regalato la Carmine, è molto eloquente. E poi vabbè, poi il giorno dopo di nuovo lotta, come la pausa di Natale sul fronte della prima guerra mondiale, insomma, quella di Pasqua. Cercando dei passi, qua ho trovato il sito Frasi Celebri dal Gattopardo. Tanto me ne cerco una, ma visto che stiamo prima parlando di sognare, allora si va con Gerardino. Ascolta le repliche, accedi al nostro Molte cose sarebbero avvenute, ma tutto sarebbe stata una commedia, una rumorosa, romantica commedia, con qualche macchia di sangue sulla veste buffonesca. Grazie. Ci stava pienamente. Tratto da Il Gattopardo, citazione del Gattopardo, che ci sembrava molto pertinente su quanto si è detto finora la questione TAV. È una citazione che ha, insomma, accolto una persona che si è materializzata in questo momento. Non importa, però manda un saluto ai nostri 5 radioascoltatori, a cui sinceramente non gliene frega niente della diretta. Evviva! Tanti saluti da Carmine, la vostra DJ preferita. Torna Carmine. Io rifaccio un appello ai nostri 5 radioascoltatori. Bei tempi, quando eravamo su in valle. Senti, ma Ermelinda ci ha fatto venire voglia proprio di andare su. Sono persa l'intervista invece, quindi riascolterò il podcast. Podcast che da stasera sarà disponibile su wombat.noblogs.org in prima pagina. Sono un po' malinconica comunque. Sono qui ma con la testa un po' su. Immagino, infatti si parlava anche di come si è ringiovanita, come si è ringiovanito il movimento, della bellezza di tutti questi giovani. Ma te ti senti una giovane notav? Assolutamente no. Una vecchiona bacucca notava. Allora devi ispirare. Avevo 14 anni quando ho iniziato. Eri una giovane notava. Esatto, una giovane notava, sì. Piccole notav crescono. Ogni cosa a suo tempo, dai, va bene. Adesso sei una matura notav con tanto però da trasmettere a tutti gli altri che si approcciano a questo mondo. Quindi ci condurrai te tra i pertugi dei boschi per sfuggire ai cacciatori di Sardegna, Carmen? Ma perché sono tornati anche loro come vecchi? Sì, pare. Sì, pare che praticamente per arrivare al presidio dei mulini ci siano appostati i cacciatori di Sardegna, che a chi cerca di sparare i sentieri per arrivare a portare a vivere al presidio, che gli lanciano, che diceva, i fumogeni. Fumogeni o i candelotti. Sì, candelotti. E ricordo, loro hanno l'abitudine di stare sugli alberi, tipo cecchini, sempre in alto. Ah sì, ma sono proprio... Chi sono sti cacciatori di Sardegna? Sono proprio sardi o si chiamano così? No, è un corpo di... Credo che sia un corpo speciale, che ricordo che è stato nel 2010, ha iniziato a frequentare la valle, e tra il 2010 e il 2011 erano nascosti nel presidio. Non fanno mai le azioni direttamente, ma hanno proprio la funzione tipo di cecchini, quindi appostati a controllare, insomma. Sì, praticamente sono quelle forze speciali che erano nate negli anni dei sequestri, che si sono sia in Calabria sia in Sardegna, erano state create proprio per la ricerca dei sequestrati, e poi sono rimasti a rompere le balle. Come i Zetas. Allora i cacciatori in Sardegna, forse. Lì. Ma certo, se, il castello è anche tuo, Carmine. No, è il pinguino di là. Pinguino che ha fatto un'intervista, ci ha portato un tagliere di formaggio, ora pare stia cucinando, nonostante fosse la sua serata libera. Cioè, un pinguino che ha le ali e le sa usare, dobbiamo dirlo. Un grande pinguino anche. No. La performance... Comunque della sua prima intervista radiofonica, perché è la prima. Ah, Marzullo, era perfetto. Se l'hai studiata, avevi i bigliettini, preciso. Pinguino, era la tua prima intervista radiofonica? Sta dicendo di sì. Assolutamente sì, quindi davvero complimenti. Quando bisogna dirlo lo sai, eh? Sì, ma quando infatti c'è da io... Le sfottiamo, ma quando bisogna io dirlo... Io propongo... Pinguino! Pinguino! Niente, c'è. Io c'è propongo. Una donna, scusa, lui. Carmine. Io propongo. Che qui questa è una diretta castellana, non è che siamo in uno studio di regia ermetico e insonorizzato. Ecco, è tornato. Grande, grande il pinguino. Senti, un applauso a Pinguino. Molto gentile. A parte eri straprofessionale, ma hai fatto venire voglia di inaugurare una rubrichetta sui libri. Che poi puoi fare te, puoi condurre te, ogni quando ti va, no? c'è un libro che ti interessa, chiami la scrittrice, lo scrittore, inviti qua, si fa un'intervista, almeno insomma il castello è un posto che chiama la cultura, no? Ma si presuppone che prima me li debba leggere tutti e poi... se vuoi essere una serio... Una certa professionalità ovviamente, se vuoi essere serio come oggi... Ma fai così, quelli che hai già letto, se c'è uno particolare, uno scrittore, scrittrice fiorentina, per esempio, che ne so, l'Agostini. L'Agostini ha scritto vari libri sulla campagna, molto bello, Città e Campagna, eccetera... Essere una scoperta anche per me. No, poi se vuoi rimanere sul tema viaggio, abbiamo degli scrittori che conosciamo, tipo un certo Giordano che ha fatto un viaggio in bicicletta. Che cazzo è questo a me? E si potrebbe intervistare. Sì. Intrusi, diciamo così. Sì, ma ce ne saranno. Li scopriremo nella prossima edizione delle dirette Castle Direct. Alla fine mi parlerò dei miei viaggi. Dei tuoi libri. I libri, però può darsi nel futuro. È Pinguino, però finché però non scrivi non è su un viaggio libri, ma in realtà su finché non scrivi dei libri sui tuoi viaggi no ti sui possiamo viaggi intervistare. No. Qualcosa di molto più vale la pena. Ogni volta che dici Pinguino mi viene fame, mi viene in mente il gelato, cioè, in questo caldo, scusa, mi trasformerò in un altro animale. Sì, meglio. No, quello è bello, ci piace, è simpatico. Io direi che dopo questo attimo Salutiamo? Che si fa? Esatto. Si manda musica e basta. Andiamo musica. Salutiamo. Diamo appuntamento a forse. Non lo so, infatti, Carmine, devo dirci qualcosa ancora. Perché l'Ermelinda è stata molto tecnica, ma anche molto. È stata emozionante perché ci ha trasmesso la bellezza di questa lotta, della vitalità che lei dice che le arriva da questa lotta, eccetera, eccetera. E te concordi o. Vorrei salire anche per farmi un po' impregnare da questa vitalità, perché in realtà, insomma, negli ultimi anni ho un po' di nostalgia di questa energia valsusina, che secondo me è andata un po' dissipandosi anche dalle ferite grosse che sono state fatte poi, no, tra arresti e denunce, fogli di via e quant'altro. E quindi bene, cioè, sono contenta di questa narrazione e vorrei assaporarla un po' anche con i miei sensi, senza doverla ripescare dai ricordi, dalla memoria, e sono molto contenta, però non la respiro ancora, purtroppo. Sarebbe bello fare, lo sapete che io ho mille idee, perché per metterne in pratica una deve averne mille, e c'era un'altra. Fare una direttona speciale dalla Valsusa ad agosto, ma come sarebbe? Potrebbe anche avverarsi. Potrebbe avverarsi, la mettiamo lì, la buttiamo lì. Magari, tanto ormai abbiamo fatto le dirette, l'ultima con la Dama e con Gringo, eravamo in piazza Santo Spirito con Gringo e con la Dama in piazza Pontassieve. Quindi chi ci dice che non possiamo farla dalla rete del presidio una diretta? Saranno problemi e se forse sì e tecnici, e se saremo anche tutti insieme ancora meglio, fisicamente vicini al presidio, quello è l'obiettivo. E vabbè, ci lasciamo così con tanti sogni, ciò che deve accadere. I nomi dei radioascoltatori già non ci scrivono, però sono ancora, vediamo, aggiorniamo la pagina di Streampunk, ma non ci scrivono, sono ancora sei. Sono ancora sei, ma secondo me è qualcuno che si è dimenticato, acceso il cellulare sullo streaming Wombat. Grandissime, vi vogliamo bene comunque, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Wombat. E io saluto qui. Ciao. E quindi vi ricordiamo mercoledì direttone finale da Frittole, Radio Contado, ve lo confermiamo. Ancora prima di averlo comunicato a Mamma Wombat. Mamma Wombat. Possiamo dire ci sarà un puntatone dalle 2:30 in poi. Sì, fino all'aperitivo, con alcuni contenuti interessanti e tanta caciara. Tanta caciara, tanta musica in live, letture, canti. sì. A Frittoli, tutti invitati a gioire con noi, ascoltarci, mandarci messaggi, suggerimenti, qualsiasi cosa voglia venga trasmesso in quel momento lì. Bene, bene, sarà bellissimo. Vi aspettiamo. Per chiudere con un'ultima citazione, visto che oggi ne abbiamo fatte tante, citiamo Roberto Morrione, un giornalista scomparso da qualche anno, che ripeteva spesso: fai quel che devi, accada quel che può. Che deve accadere